Fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Buonasera a tutti e a tutti dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola in onda tutti i martedì dalle 16 alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi diamo subito i nostri contatti, il telefono è quello ormai insomma piuttosto anzianetto di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50 e la nostra mail oradibuco@ondarossa.info, il nostro blog oradibuco.noblogs.org e il sito della radio che conoscerete benissimo, che è il www.ondarossa.info, da cui potete ascoltare in podcast i redazionali e le trasmissioni dei giorni scorsi e anche sostenere questa radio che non campa d'aria né di pubblicità né di finanziamenti, ma solo del sostegno di tutte e tutti noi. Tornando a noi, appunto, questo è un appuntamento settimanale per parlare di scuola da parte di lavoratrici e lavoratori della scuola. C'è anche un altro appuntamento, insomma ci piace ricordarlo, uno spazio di studenti e studentesse che invece è il mercoledì pomeriggio alle 17.15, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Nell'ultima puntata avevamo dato un appuntamento del coordinamento scuole di Roma, che è questo coordinamento che è nato da qualche mese e che ha come dire, contribuito a costruire le giornate di lotta che ci sono state soprattutto tra ottobre e novembre e che nelle singole scuole continuano anche adesso con delle sorte di scioperi bianchi, insomma blocchi del POF e di varie attività, ma diciamo una mobilitazione che si vuole riportare in piazza, tanto che c'è un appuntamento questa volta nazionale il 2 febbraio qui a Roma, un corteo nazionale per una scuola pubblica per tutte e tutti, di tutte e tutti. Il movimento delle scuole appunto dello scorso autunno ha reclamato il diritto all'istruzione per tutti e tutte, ha contrastato l'ennesimo progetto di tagli alla scuola. Ricordiamo che la scuola pubblica italiana già insomma non è che proprio è destinataria di investimenti finanziari adeguati in generale, insomma almeno per quanto riguarda dagli anni 80 a oggi, insomma ha subito tantissimi tagli la scuola pubblica, ma diciamo ha avuto un taglio molto netto con l'ultimo governo Berlusconi, un'iniziativa insomma della Gelmini, ma che molti chiamavano Tremonti Gelmini proprio perché si trattava non di una riforma ma di un taglio, e sono stati tagliati 8 miliardi l'anno di finanziamenti alla scuola pubblica su 40 che era l'investimento globale, quindi un quinto. Quest'anno il governo Monti ne ha tagliati di fatti un altro di miliardi alla scuola, però come dire aveva progetti anche più ampi di quello che poi hanno realizzato fin qui, e in parte insomma la mobilitazione degli studenti e delle studentesse in particolare, ma poi anche dei docenti e degli altri lavoratori e lavoratrici della scuola, ha perlomeno stoppato alcuni progetti, come dice appunto l'indizione di questa manifestazione, per esempio quello di aumentare l'orario di lavoro a parità di salario e anche il progetto di legge ex Aprea, diventato poi DDL Aprea Ghizzoni, che per ora insomma come dire dorme in letargo e vedremo insomma con la nuova legislatura. La questione oggi come oggi, la considerazione che mi sento di fare è che la questione dello stop per adesso dell'iter dell'ex Aprea e poi delle 24 ore frontali di lezione c'ha sicuramente qualche connessione con le elezioni, cioè, anzi direi più di qualche, no? È sicuramente in un certo senso dovuto anche al fatto che poi prima delle elezioni non si, una volta, ecco, ho capito, non hai parlato, non ero, mai cioè io che ho mosso la mano, scusatemi, ho abbassato il cursore del microfono. Allora dicevo che sicuramente possiamo mettere in connessione oltre al fatto delle mobilitazioni che sicuramente hanno avuto il loro peso, questo stop alle 24 ore frontali di lezione e all'iter della legge ex Aprea che andava appunto a ridisegnare complessivamente la scuola italiana, anche al fatto che siamo in clima di elezioni, si sapeva che ci stavamo, non è sia parte le dimissioni, insomma è poco insomma lo scarto rispetto alla fine naturale della legislatura, quindi insomma è ovvio che poi in una situazione elettorale, di campagna elettorale come quella che stiamo vivendo, in cui i programmi non si riesce assolutamente, a meno che proprio fai una ricerca veramente impegnativa, e per quanto riguarda per esempio la scuola, Monti qualche cosa ha detto, certamente sempre nel solco anche dei governi Berlusconi che l'hanno preceduto, io non è che ho, per quel poco che ho letto, visto grandi novità, e questo sempre gran parlare di riqualificazione, ma di invalsi, di indire, quindi scusate queste parolacce, ma comunque di un criterio di valutazione su basi oggettive dei livelli raggiunti dalle scuole e di conseguenza di finanziamenti, riconoscimenti, premi anche ai docenti. Per quanto riguarda per esempio il PD, il programma almeno per adesso non è ancora stato uscire fra qualche giorno sulla scia di un'assemblea che sembra ci sia stata in merito appunto alla delineazione di questo programma, quindi insomma questo tanto per dire che non è rientrato poi alla fine granché, che il disegno ormai che riguarda la scuola italiana, la scuola pubblica soprattutto, è ovviamente già ben delineato e non ci sono poi grandi diversità nei programmi almeno delle principali forze politiche e coalizioni che si presentano alle elezioni prossime, insomma. Sì, purtroppo abbiamo imparato a nostre spese, non so, questa è un'opinione che vi pongo lì così, che ci sono alcune parole che quando vengono usate bisogna stare attenti perché sta per succedere qualcosa di brutto. Una di queste parole è valutazione, merito sicuramente, innovazione e qualità. A me torna anche nella, come dire, nell'appello per la manifestazione, appello che condivido, si parla di scuola di qualità e ovviamente nessuno di noi vuole una scuola senza qualità. Però normalmente in come dire, nel dibattito pubblico chi sottolinea questo è sempre per togliere un diritto, per togliere un diritto acquisito. Io non so perché, ma rientra sempre, no, in una visione meritocratica contrapposta alla visione invece del diritto allo studio, della scuola per tutti e tutte, eccetera, eccetera. Non so se mi sono chiarita. No, ti sei spiegata bene, perché io stavo pensando anche all'atteggiamento di molte e molti docenti, insomma, che si esprimono in varie sedi, in varie forme, rispetto a questi problemi, che invece di appunto puntare, come dovrebbe poi, a prescindere dall'essere docente, ogni cittadino o cittadina, appunto a una scuola per tutte e tutti, che abbia come obiettivo quello di un raggiungimento di determinati livelli di istruzione, di competenza, non mi piace, perché no, quella pure attiene ai termini che avevi usato tu, ma comunque di conoscenza, di capacità autonoma, di giudizio, eccetera. E invece puntando a, cioè, io leggevo per esempio recentemente sul Left, che è il settimanale che ormai si vende solo con l'unità il sabato, l'intervento di un docente che spesso parla dalle pagine di Left, che faceva tutto un quadro criticando fra l'altro per esempio il Partito Democratico, pur essendo Left, insomma, la danno con l'unità, quindi non è che sia qualche cosa che è completamente esterno. Però poi alla fine concludeva, non l'ho portato, comunque concludeva dicendo che il problema fondamentale della scuola italiana è la qualificazione del corpo docente, ma non perché ha bisogno di qualche strumento di istruzione in più o meno, ma per dargli dignità, per ridargli un ruolo che evidentemente sente di non avere più. E questo però mi ha dato la sensazione di un discorso molto di casta, in un certo senso. Scusate se uso pure io sta parolaccia, ma in questo caso la uso non nel termine, insomma, che ormai frustro, che ormai non se ne può più, ma proprio nell'individuarsi da parte di molti docenti come casta. Questo è un grosso problema, e concludeva dicendo ci vorrebbe un istituto, una specie di consiglio nazionale dei docenti che giudichi in un certo senso l'idoneità o meno dei propri colleghi, per liberarsi finalmente dei docenti inidonei e incapaci. Cioè, a me che un lavoratore si metta a fare questi discorsi che fanno il paio con le solite cose che sentiamo e sentite continuamente, e forse chi ci ascolta pensa anche, e che i lavoratori e le lavoratrici dello Stato, in ogni caso, anche se danno una coltellata al capo divisione, al preside, non li muove nessuno, perché lo strapotere dei sindacati, tutti questi luoghi comuni, insomma, metterci sopra una cosa del genere. Quindi credo che ci sia bisogno appunto di riportare, come appunto citavi te rispetto al volantino, gli obiettivi della scuola a quelli che sono e dovrebbero essere realmente, quindi non sentirsi come i depositari di qualche cosa, no? Il nucleo, cioè nella scuola ci sono anche gli studenti. No, anche. Sì, anche perché in questo momento anche questo è molto pericoloso. Tutti, compreso Monti, lo abbiamo appena letto, parlano del fatto che bisogna rendere dignità alla figura dell'insegnante. E poi dicono: come si fa a rendere dignità alla figura dell'insegnante? Vi si valuta con questi criteri che discendono direttamente dall'OCSE, Unione Europea, eccetera, l'Invalsi, l'Indire, cioè riduciamo la scuola a delle compilazioni di crocette, se voi le compilate bene, le fate compilare bene, sarete bravi, se no fuori, cioè sostanzialmente. Quindi va sempre a detrimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e di una scuola come dire un luogo dove si può costruire pensiero critico, e diventa invece appunto una fucina di competenze, sostanzialmente. Questi due discorsi ormai vanno di pari passo. E fra l'altro a me viene anche da dire un'altra cosa: non è che bisogna costruire o ricostruire la dignità, l'autorevolezza dell'insegnante, bisogna ricostruire la capacità della scuola di essere un luogo come dire costruttivo per gli studenti e le studentesse, cioè nel senso l'autorevolezza dell'insegnante discende da quello, non dal fatto che tu mi giudichi con un test a crocette, se proprio vogliamo parlare d'autorevolezza dell'insegnante, discende dal fatto che in questo momento, per anche l'egemonia culturale che c'è nel paese, la voglio prendere larga, la cultura, l'istruzione, la lettura, la capacità di costruire un pensiero critico, la capacità di costruire una analisi, è considerata la feccia del mondo, e quindi è chiaro, è questo il problema, non la considerazione della figura dell'insegnante. E poi è un chiamarsi fuori da quelli che sono i problemi, un deresponsabilizzarsi, no? Perché se tu dici a me mi dovete ridare l'autorevolezza e la dignità che non si sa chi e come ti ha tolto, automaticamente tu ti chiami comunque fuori, non hai nessun tipo di responsabilità, mentre io credo che comunque una responsabilità della situazione attuale, non solo nella scuola, lavoratori e lavoratrici se la devono sentire, soprattutto sul fatto forse di non essersi opposti e opposte in maniera, insomma, più determinata. Poi non è che le lotte non sono mancate, ma evidentemente non erano sufficienti. Questo è un problema che ci dobbiamo sentire come lavoratori e lavoratrici, e fare questi discorsi, ripeto, di far chiamare fuori, cioè rivoglio una dignità, cioè poi che significa, poi a me non mi dovete discutere, no? Io sto qua, so il professore, a me non mi dovete discutere, no? Quindi non si, se non mi state a sentire il problema è vostro, quindi una scuola non più già non lo è, ma insomma una volta doveva esserlo nello spirito delle vecchie riforme, ricordiamo la scuola media unica, no? Per esempio, che tolse la divisione fra avviamento e scuola media, quindi già con una determinazione a 11 anni di dove tu saresti finito, quale sarebbe stata la tua vita, quindi insomma è una scuola che invece è escludente. C'è una telefonata? Sì, c'è una telefonata di un ascoltatore, un attimo solo che prendiamola. Pronto, ciao, ci senti? Pronto? Sì, ciao, ci senti? Sì, sì. E un attimo solo. Ecco, ora mi sa che ti sentono anche le altre compagne qui in radio. Prego. Ok, ciao. Io volevo, diciamo, fare un po' un piccolo intervento su un'iniziativa che stiamo organizzando nel quarto municipio. E quindi, diciamo, siamo il coordinamento delle scuole del quarto municipio e stiamo organizzando un'iniziativa, una manifestazione con corteo per venerdì 25 gennaio, con partenza alle ore più o meno 16:30, 17. Il luogo, insomma, lo stiamo definendo, comunque dovrebbe essere la partenza da Piazzale Adriatico. Si troverà poi sul sito del coordinamento delle scuole? Sì, invieremo la mail. Giovedì abbiamo un'altra riunione tecnica, diciamo un'ultima riunione per definire alcune cose, e lo invieremo, sì, la mail a tutti quanti, insomma, diciamo un corteo per il quartiere, diciamo, per comunicare il disagio del mondo della scuola nel nostro territorio. E, diciamo, noi abbiamo assunto chiaramente la piattaforma di rivendicazione della manifestazione del 2 febbraio, quindi, diciamo, per il rifinanziamento alla scuola pubblica statale, noi finanziamenti alle scuole private, assunzione dei precari a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti, noi progetti di privatizzazione e aziendalizzazione delle scuole, no al patto di produttività, la sua estensione nel pubblico impiego, e comunque, diciamo, poi la nostra piattaforma comprenderà anche alcuni punti più specifici legati alle problematiche delle scuole, diciamo, dei nostri quartieri, insomma, con particolare riferimento alla situazione dell'edilizia scolastica e della sicurezza. Perché chiaramente ci vuoi fare qualche esempio della situazione del quartiere? Diciamo strutture scolastiche che poi rientrino in tutte le norme esistenti in tutto e per tutto, credo che non siano molte, e poi in particolare ci sono situazioni di scuole con amianto, situazioni di scuole con antenne sui tetti delle scuole, quindi anche il problema dell'elettrosmog, la manutenzione inesistente, ratti nelle scuole, insomma, in parecchie scuole del quartiere ci sono stati questi, E poi diciamo anche i temi del diciamo temi specifici come l'integrazione dei disabili, quindi il taglio alla, diciamo tutti i tagli alle cooperative, la diminuzione delle risorse per gli AIC, il fatto per esempio che gli AIC nelle scuole non hanno più la possibilità di usufruire del pasto e quindi di consumare il pasto insieme ai bambini con i quali devono lavorare, insomma il pasto è un momento molto importante, specie nella scuola dell'obbligo. I problemi degli accorpamenti che nel nostro municipio praticamente hanno visto, c'è stata insomma una politica di accorpamenti fatta dal municipio, credo tra le più scandalose veramente esistenti, a partire da per esempio l'istituto comprensivo Renoglio, che poi era già un istituto comprensivo e invece è stato scorporato per essere diciamo alcuni plessi di quell'istituto comprensivo hanno fatto parte, cioè fanno parte adesso di diversi istituti comprensivi di altri, e quindi diciamo anche l'accorpamento noi l'abbiamo vissuto in modo abbastanza abbastanza pesante, insomma adesso ci sono 19 istituti nel nostro municipio, tra superiori, 12 istituti comprensivi e 7 istituti superiori, e niente, diciamo questi sono un po' i temi. Comunque diciamo poi noi ci teniamo anche a come dire, cioè a creare ecco una mobilitazione comune con tutte le altre realtà del territorio, a partire dalla sanità, che insomma riguarda comunque purtroppo è una questione che riguarda qualsiasi cittadino, un po' volendo come anche l'istruzione rientra in quelle cose che insomma tutti ci dobbiamo occupare di queste cose, insomma. E niente, insomma, questa. Senti, se vuoi diciamo, ripetere il giorno, l'ora e poi. Allora, il giorno è venerdì 25 gennaio, quindi diciamo una settimana prima della manifestazione nazionale del 2 febbraio. E l'appuntamento diciamo non è proprio confermato al 100%, comunque dovrebbe, diciamo il luogo, comunque dovrebbe essere molto probabilmente la partenza da Piazzale Adriatico, per poi insomma scendere attraverso il Tufello, una parte insomma di Monte Sacro, fino alla scuola Parini, che la Parini diciamo è una scuola diciamo ormai anche famosa per determinati motivi, cioè la Parini che fa parte dell'istituto comprensivo di Piazza Capri, da cui prende il nome proprio tutto l'istituto comprensivo, è una scuola diciamo venne chiusa molti anni fa, venne fatta una prima gara d'appalto per fare dei lavori di ristrutturazione che poi vennero fatti. E nel frattempo, mentre c'era una seconda gara d'appalto per ultimazione dei lavori di restauro, eccetera, ci fu quel caso dell'occupazione di Casa Pound, che l'occupò per poche ore, poi diciamo anche insomma in seguito a una mobilitazione immediata che si era creata lì, considerando che la Parini sta praticamente a 100 metri in linea d'aria dalla casa di Valerio e Carla Verbano. Insomma voglio dire non era una cosa sì, era una cosa insomma da evitare da contrapporsi immediatamente, ecco. Esatto. Comunque rimane il fatto che è un edificio molto grande, anche volendo, di cui non sappiamo bene com'è la situazione al momento attuale. L'unica cosa che io avevo sentito parlando con dei consiglieri municipali e che era stata ventilata addirittura la proposta di metterci un commissario di polizia, cosa che poi è stata sventata, diciamo. Però quello che noi vogliamo ribadire. Quindi alla rovescia, invece di usare le caserme, esatto, a fini civili, si usa le scuole a fini militari. Certe volte pare che il mondo gira alla rovescia. E va bene, quindi niente, insomma. Quindi, diciamo, vogliamo anche fare il punto su questa situazione di questa scuola, che noi vogliamo chiedere diciamo l'ultimazione dei lavori di restauro e la sua riassegnazione, visto che l'istituto comprensivo di Piazza Capri stanno parecchio stretti poi nei loro spazi, insomma, quindi è necessario che questa scuola venga ultimato l'iter di lavori, delle cose, e venga ridata come scuola, insomma, di cui c'è bisogno. Quindi niente, poi magari vi faremo avere il comunicato. Comunque l'appuntamento è per venerdì 25, tutti quelli che vogliono partecipare. 20-25 alle 16? Diciamo l'appuntamento sarà alle 16:30 per partire alle 17. Ok, e ti ringraziamo per questo intervento. Ciao. Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte. Ciao, ciao, ciao. E ricordiamo, insomma, a chi ci ascolta che il sito del Coordinamento Scuole di Roma è coordinamentoscuoleroma.wordpress.com, dove troverete questa iniziativa del 25 e anche quella nazionale del 2 febbraio. Mettiamo un pezzo musicale e poi riprendiamo il discorso da dove l'avevamo interrotto. Io metto Iannacci. Ho visto un re. Se lo riscuse? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, Ho visto un vescovo. Se la discuse? Ho visto un vescovo. Anche lui, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, E il cardinale che gli ha portato via una pazzia. Oh, per Cristo. 32 che lui cena. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, Ho visto un ricco. Se la discuse? Ho visto un ricco. Un show. Sì, il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava sì che tutto l'annacquava. Povero tapì. E povero anche il fin. Sì, beh, il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena. Povertà fin. E povero anche il vin. Sì, beh, visto un vilano. Sai, scusa? Un contadino. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radio transistori, i dischi di Feltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il Purcell. Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ma Salerma? No, il fatto è che noi Milan, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E torniamo subito in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Stavamo presentando la manifestazione nazionale che ci sarà sabato 2 febbraio qui a Roma e stavamo appunto dicendo un po' appunto che ovviamente questa manifestazione muove dalle mobilitazioni dello scorso autunno, che in qualche modo hanno avuto una loro forza, anche se è ben lontano il problema da essere, come dire, chiuso. E tant'è vero che il primo punto della piattaforma di questa manifestazione chiede il rifinanziamento della scuola pubblica. Il rifinanziamento proprio perché, come si diceva prima, si partiva da un finanziamento annuale di circa 40 miliardi di euro in totale, insomma, spesi dallo Stato per la scuola pubblica italiana. La Gelmini ne ha tolti 8,5, Monti ne ha tolto un altro, quindi ormai siamo praticamente a un quarto meno di quanto era previsto, e non è che prima la scuola italiana fosse la scuola svedese, ecco, insomma, per così, per buttarla lì. Quindi si chiede il rifinanziamento, e attraverso il rifinananziamento, questo discorso sul rifinanziamento, si chiede anche che vengano cancellate i finanziamenti alle scuole private. E qui si apre un altro capitolo, insomma, piuttosto importante e anche vergognoso, a mio parere, di come è stato aggirato dalla legge di parità del voglio dire una parolaccia del compagno Berlinguer, insomma, di Berlinguer sto parlando ovviamente di Luigi, perché sono 42 quelli, Luigi, vero, mi confermate, insomma, quello che è stato ministro della pubblica istruzione, che firmò appunto questa legge di parità, che è un discorso, però mi sto confondendo, in realtà il finanziamento viene da altro, da altro raggiro della Costituzione, e cioè viene dalla questione dei bonus scuola per le famiglie che decidono di iscrivere i figli nelle scuole private. Cioè, qual è il meccanismo? La Costituzione italiana dice che c'è libertà di istituire scuole private purché non ci siano oneri per lo Stato, quindi lo Stato non può finanziare le scuole private. Quindi cosa è stato inventato? Che non si finanziano le scuole private, però si dà i soldi a chi iscrive i figli nelle scuole private. Questo è stato, come dire, il mezzuccio con cui si è scavalcato la Costituzione sul finanziamento delle scuole private, oltre al fatto che poi, vabbè, le scuole private in Italia sono o esamifici, insomma, credo che questo si possa dire, cioè quelle scuole in cui ci si iscrive per fare 5 anni in uno, 3 anni in due, eccetera, oppure sono scuole confessionali, sono scuole legate alla Chiesa Cattolica, e quindi hanno tutta una serie di esenzioni, per esempio quella sull'IMU, insomma, di cui la stampa ha molto discusso, ma credo che alla fine non l'abbiano pagata l'IMU le scuole cattoliche. Anche quest'anno la scuola privata, cioè il bonus a scuola, è stato rifinanziato con circa 250 milioni di euro, che certo rispetto a 8 miliardi sembrano bruscoline, ma rispetto al fatto che a tutt'oggi, come dicevamo l'altra volta, le scuole non hanno ricevuto nemmeno il fondo di istituto per il funzionamento di quest'anno, forse non è così. No, dico, rispetto al fatto che a fronte di questo si chiedeva ai lavoratori della scuola di lavorare 6 ore in più per poi poter devolvere una parte del risparmio considerato globalmente compensare la spesa sostenuta da chi ha iscritto i figli alle scuole private. E non è che quei tagli, cioè il provvedimento è rientrato, ma quei tagli sono stati fatti sul FIS, sono stati fatti su fondi di ricerca per l'università, quindi voglio dire, comunque si taglia la scuola pubblica e si continuano a devolvere risorse per chi vuole peraltro iscrivere a scuole private persone che o hanno necessità, come dicevi prima, di recuperare in un modo o in un altro un diploma, o persone che hanno condizioni e agio di poter scegliere di sostenere e iscrivere i figli a una scuola privata, e che rappresenta un impegno di spesa al di là del rimborso, insomma. Si diceva che a suo tempo, insomma, durante tutto il dibattito che ci fu quando furono stanziati per la prima volta questi bonus, che insomma era pure giusto che chi voleva iscrivere i propri figli in determinate scuole avesse la possibilità di non, insomma, pagare troppo. Il problema è che se c'hai rette di 8-9 mila euro e ti danno 1000 euro, ove mai, io non lo so adesso quali sono i criteri, questo certamente, credo che sia questo più o meno la proporzione, non ti mette certo in condizione di iscriverti al Santa Maria, per citare un istituto di Roma, per esempio, uno dei più, insomma, famosi. Poi e quindi a quel punto sono soldi regalati ai ricchi, diciamo, in maniera banale, che ormai questa è la strada proprio apparentemente senza ritorno che si percorre in questo paese, che i governi percorrono in questo paese. Poi su tutto il resto, su perché andare, mandare i figli e le figlie alle scuole private, qui, vabbè, si apre proprio un mondo di discussione e così via. Una delle cose, e chiudo, che a me mi ha sempre fatto molto ridere è stato: ma almeno non te li buttano in mezzo alla strada, che non ho mai capita questa cosa. Io ho due figli, non me l'hanno mai buttato in mezzo alla strada, ammesso che a me mi prendesse un colpo. Non, io ho 13 anni insomma di lavoro a scuola, sinceramente non mi ha visto buttare nessuno in mezzo alla strada, anzi siamo terrorizzati tutti gli insegnanti che questi vadano nella strada, perché abbiamo l'obbligo di sorveglianza. No, credo che chi parla di questo faccia tristemente riferimento al diritto di sciopero, ecco, credo che l'orizzonte sia questo. Non lo so, per cui erano genitori di bambini molto piccoli, no, per cui poi insomma ai bei tempi, quando c'era il tempo pieno veramente e così via, anche se insomma non era per così esteso eccetera, però insomma non c'erano problemi, non è che fosse legato al reddito o cose del genere, come per esempio la frequenza degli asili nido, no? Che quello è un altro problema enorme, per cui insomma io devo dire che appunto sia lavorandoci anche come madre, per me la scuola pubblica almeno fino adesso, come dire, diciamo a Roma gli dà una bella pista alla scuola privata, sì, al Santa Maria che ho citato c'hanno la piscina di 25 metri. E questo è vero, però insomma, allora vogliamo la piscina di 25 metri per tutti, non andiamo a cercare la scuola con la piscina di 25 metri. Questo no, non solo, essere... poi insomma si può anche dire a chiare lettere, le scuole private in Italia non garantiscono una migliore istruzione, non la garantiscono, cioè non è per fare una difesa di parte, pagano meno gli insegnanti, sono insegnanti scelti su criteri che decide la scuola, non seguono graduatorie, non seguono come dire curriculum stabiliti in maniera formale eccetera, quindi insomma è semplicemente che in genere hanno dei palazzi molto più belli, il riscaldamento funziona meglio, non ci piove, c'è la piscina a 25 metri, però è questo tipo di strumenti che forniscono, no? Come dire, poi determinate classi sociali lo vedono anche come status, perché i figli di, se voi vedete le biografie, se bevate perde tempo un giorno, quello lì ha studiato là, quell'altro ha studiato quell'altra scuola, ma poi sono grosso modo per esempio a Roma 3-4 le scuole che hanno questo nome e costano un occhio della testa, il resto è una pletora. Basta camminare per strada, voi vedete tanto targhe, scuola, più tutte le scuole delle monache, no? Dell'infanzia, eccetera. Cioè, io non lo capisco perché mandano i figli dalle monache. Posso ancora capire, magari, che te l'hanno, non te l'hanno preso al nido, stai con l'acqua alla gola, anche se io piuttosto ovviamente cioè non so che cosa farei, non oso immaginarlo, piuttosto che dai miei figli in mano, no, a monache e preti. Comunque in parte è quello che diceva prima la compagna, cioè perché ho presente nella mia scuola per esempio c'è stata un'occupazione abbastanza lunga, finita l'occupazione alcuni ragazzi sono stati ritirati dalle famiglie e sappiamo che sono stati iscritti in scuole private dove appunto non ci sono occupazioni, gli insegnanti non sciolgono, operano eccetera eccetera. E comunque per chiudere poi insomma o per aprire insomma questo discorso sulla, sul finanziamento della scuola privata e per tornare al discorso di prima sulle parole che appena vengono pronunciate bisogna stare con i capelli dritti, l'altra è libertà di scelta. Libertà di scelta sembra una cosa bella e invece è il modo che hanno inventato cattolici tipo Formigoni, quindi CL, quel settore là, per parlare del fatto che vogliono i soldi per la scuola privata, perché il bonus scuola garantirebbe la libertà di scelta che la dobbiamo pagare noi evidentemente, con quel problema che dicevi prima insomma, perché che viene dato circa 1.000 euro su 8-9.000, quindi di fatto si danno i soldi a chi già ce l'ha e si arriva a dei punti di parossismo, per non usare altri termini, per cui nella regione Lombardia, cito a mente ma con una certa sicurezza, L'80% delle risorse che dà la Regione Lombardia sulla scuola le dà al 10% degli studenti, cioè il 10% è quello che è iscritto alle scuole private, l'80% dei soldi della Regione vengono dati alle scuole private, quindi sono dei dati che sono talmente sconfortanti, che talmente allucinanti viene subito da pensare che uno ha sentito male, ma in realtà è così. Ora insomma, volendo si possono prendere i dati e andando a vedere i dati si capisce come hanno fatto a costruire questa cosa, ma il risultato è questo: 20 anni di Formigoni rispetto alla scuola ha costruito questo nella regione Lombardia. Si sta appunto parlando di finanziamento alle scuole pubbliche, perché stiamo parlando private, si sta parlando della piattaforma della manifestazione nazionale sulla scuola, e ci sarà il 2 febbraio a Roma. Appunto, il primo punto è rifinanziamento della scuola pubblica e basta ai finanziamenti della scuola privata. Gli altri punti sono l'assunzione dei precari e delle precarie, il blocco dei progetti di privatizzazione e aziendalizzazione, che fino a oggi si chiamava legge Aprea, legge ex Aprea, eccetera, ma al di là del fatto che questa legge passi o venga ritirata, il problema è, come dire, un processo che sta andando avanti da anni e che non si è mai fermato in realtà, questo dell'aziendalizzazione, e che prende a mio avviso un po' tutto i campi della scuola. Non è soltanto il fatto della privatizzazione in senso stretto, ma anche, come dire, dell'impostazione, no, culturale della scuola, che viene sempre più pensata, per esempio, l'abbiamo detto più volte da questi microfoni, i termini aziendalistici che sono invalsi nella scuola sempre da Berlinguer, i crediti, i debiti e tutte queste robe qua. Mi sento un po' come una parla da sola con due persone e la guardano. Siamo educate, non ti vogliamo interrompere. È che sei così brava. Grazie. E quindi non succede niente, però vado avanti. L'altro punto è la disdetta del patto sulla produttività e la sua non applicazione al pubblico impiego. L'accordo sul, insomma, il patto sulla produttività, che sapete, insomma, è stato varato alla fine del governo Monti e che riguarda l'impiego privato, vuole essere introdotto anche nell'impiego pubblico e anche nella scuola. E su questo, come dire, sempre più realisti del re, Cisl e Will sono andati a portare su un vassoio d'argento questo, come dire, questo regalo, insomma, al governo Monti, questo della produttività. Sì, la sparizione del contratto collettivo, questo tipo di cose. Poi di fatto noi ci ha già sparito prima ancora del privato, in pratica, no? Perché noi il contratto non ce l'hanno rinnovato, è scaduto nel 2009. Questo è stato un danno grosso, insomma, grosso, vabbè, rispetto ai nostri stipendi. Gli aumenti erano quello che erano, poi da qualche anno non ci sono manco più gli arretrati, l'indennità, no, per il mancato rinnovo del contratto, esatto, quella pure ce l'hanno levata, così l'imperio, 10 euro io prendevo, ma insomma non ci sputavo sopra. Per cui questa è la situazione. Quindi ovviamente è tutto il discorso che si fa rispetto a quello che dicevamo all'inizio sul fatto che, appunto, qualcuno ha detto grande vittoria delle mobilitazioni, sì, siamo contenti e contente, però di fatto il pericolo assolutamente non è passato. Del resto il sottosegretario Rossi Doria, il maestro di strada, come viene definito, perché andava a recuperare i ragazzini che non andavano a scuola a Napoli, quelli l'ha buttati per strada. L'ha detto molto chiaramente, no, vabbè, diciamo progetto meritorio, ci mancherebbe altro. E ha detto chiaramente che per adesso, insomma, poi vediamo, poi vedremo anche quali saranno i risultati delle elezioni e come a quel punto veramente i carri armati, se non materiali ma sicuramente legislativi, e forse anche in un certo senso materiali, se qualcuno, insomma, come già succede per fortuna, non ci vorrà stare a queste cose, si metteranno in moto, e qui veramente rischierà di passare molto più di quello che già abbiamo visto. No, l'ultimo punto di questa piattaforma è l'abrogazione dell'articolo 1 del comma 149 della legge di stabilità, la legge di stabilità, insomma, che è stata votata per l'ultimo dell'anno praticamente, e che consiste, se non sbaglio, in un solo articolo con un sacco di commi, sì, esattamente. E niente, per quanto riguarda questo articolo 1, appunto, l'unico esistente, comma 149, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, è di interpretazione complessa e è confluito in questa piattaforma, sicuramente ha ragione, insomma, ma anche in virtù di questa complessità di interpretazione, perché quell'articolo in realtà prevede che le scuole in qualche modo utilizzino una procedura definita, insomma, che una procedura che dovrà essere definita con successive linee guida di cui non si sa ancora nulla e per cui non sono previsti neanche tempi, per gli acquisti in realtà di beni e servizi omogenei di natura merceologica per la scuola. E conclude in qualche modo, ed è questa la parte diciamo discussa del comma, con l'affermazione che i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il finanziamento. In prima battuta il comma è piuttosto scuro, può contenere di tutto, può avere qualsiasi tipo di interpretazione. Questa cosa è stata letta in qualche modo come un modo per sottoporre l'erogazione di finanziamenti, di quegli scarsi finanziamenti, a risultati conseguiti dal punto di vista, dico così genericamente, della didattica, e conseguentemente una riproposizione in sede di legge di stabilità di quelle che sono le diverse norme sulla valutazione, le diverse prassi della valutazione. E evidentemente questo è un qualcosa che era nell'aria, che è nell'aria da tempo per quanto riguarda la scuola, ma non sembra essere contenuto in questo comma. I chiarimenti sono arrivati, e sono arrivati per bocca del sottosegretario Rossi Doria, il quale chiarisce che evidentemente si fa riferimento solo ed esclusivamente a quelli che sono, quello che è l'acquisto di materiali e servizi, cioè sostanzialmente cancelleria, assistenza tecnica per fotocopiatrici e quant'altro, materiali per i laboratori, eccetera eccetera. E la norma, anticipa il segretario Rossi Doria, stabilirebbe che questi acquisti debbono essere fatti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, che quindi non c'è in qualche modo una logica premiale di quelli che sono i risultati didattici, promozioni, bocciatura, risultati test invalsi e così via, conseguiti dalle scuole. E in realtà l'orizzonte prospettato dal comma sembra essere un po' più complesso, perché sembra parlare di reti, di costituzione di reti di scuole. Ma comunque poi non è casuale usare questi termini, perché tu poi ti garantisci che in fase di regolamento attuativo poi puoi metterci quello che ti pare, perché non va in contraddizione comunque col comma, scusate, col termine che sì, è stato usato. Sì, quindi tu hai ragione, cioè è volutamente generica la formulazione, e diciamo semplicemente per una logica di conseguenzialità quanto sta scritto viene limitato all'acquisto di beni e servizi, per quanto poi, siccome viene istituita, ripeto, una logica premiale anche in riferimento all'acquisto di beni e servizi, ci si domanda quali le scuole che non verrebbero premiate verrebbero conseguentemente ulteriormente ridotte. Non c'è la carta igienica, ma infatti poi l'abbiamo detto pure l'altra volta che sono due cose distinte. Comunque poi la tendenza, più che una tendenza, è quella di centralizzare sempre di più tutta una serie di operazioni. Allora, per esempio, che in realtà sembrerebbero alleviare anche il lavoro, ma di fatto non l'alleviano per niente, perché è il momento finale, quello dove escono i soldi, che viene centralizzato. Allora mi spiego, per esempio gli esami di maturità non vengono più pagati dalle scuole, cioè non vengono più dati i fondi alle scuole per pagare i commissari di maturità, ma tutto il lavoro per determinare poi il compenso comunque rimane alle scuole. Oppure le supplenze, adesso partirà dall'anno prossimo, dopo la cosa del cedolino unico, dove appunto a livello centrale vengono pagate anche i fondi di istituto, e si arriverà anche a pagare le supplenze eccetera, quindi non ci saranno più fondi destinati alle scuole per il pagamento delle supplenze. Questo in un'ottica fra l'altro di riduzione, quindi di fondi molto sempre più ridotti per le supplenze, che portava anche le scuole per non trovarsi poi con persone che avevano i stipendi 4-5 mesi dopo, a magari a cercare di stringere il più possibile nel chiamare i supplenti, e quindi usare le disponibilità dei docenti titolari della scuola. Ma questo soprattutto poi va a danno dei ragazzi, degli studenti e delle studentesse, perché comunque se ti manca un docente un mese, arriva il supplente, bene o male per un mese è il tuo insegnante e va avanti col programma, no? E quindi questo, pure questo sarà centralizzato, le scuole comunque dovranno continuare a fare il lavoro sia di reclutamento dei supplenti che poi di determinazione eccetera eccetera, ma tutto questo sarà controllato. Io credo che questo significa che poi loro molto più facilmente stoppano magari i finanziamenti quando più o meno lo credono. Insomma, io mi sono fatta questa idea, non ci vedo un'idea di razionalizzazione, a meno che tutto questo non significhi e questo se ne è parlato anche diversi anni fa nello spirito dell'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, non significhi poi che il personale centrale viene via via ridotto, si comincia per gradi e alla fine c'è questa grande cervellone che governa le scuole a livello centrale con una massa di precari tipo call center che fanno delle operazioni praticamente meccaniche, no? O elettroniche come vi pare, ma insomma il senso è questo, e quindi poi diventa poi un attacco comunque all'occupazione. Io ho l'impressione di questo, però non ne discute nessuno. Io ricordo solo un convegno della CGIL che fu però propaganda bieca del fondo Espero, che diceva la scuola dell'autonomia, che dissero guardate che parlo di diversi anni fa, vi leveranno tutto, vi leveranno le ricostruzioni di carriera, vi leveranno le supplenze eccetera, le esternalizzeranno a precari. Io gli volevo dire scusa, ma voi che fate rispetto a questa cosa? Noi vendiamo Espero. Sì, no vabbè, adesso niente rispetto a questa cosa, è evidente che questa è una centralizzazione delle forniture ed è anche una centralizzazione dei fornitori, per cui immagino che verranno identificati alcuni soggetti fornitori di grandi partite rispetto a reti di istituzioni scolastiche. Guarda che per la sanità non è stato fatto, se vi ricordate si era parlato di questa cosa per, sì, tutti gli scandali eccetera, guarda un po' non si è fatto. Sì, e immagino invece che per la scuola si voglia fare questo, e questo poi porterà evidentemente l'identificazione di alcuni soggetti premiati con documentazioni in regola eccetera, è una farraginosità nella gestione materiale delle scuole, perché si sarà costretti a prevedere in anticipo, a ordinare in anticipo, e diventerà sempre più complesso, fermo restando che alle scuole elementari Pennarelli i bambini li portano da casa, quindi stiamo parlando veramente di scenari assurdi. La carta igienica l'ha mai vista nessuno. E comunque detto questo, sono le 16:57, quindi possiamo chiudere qui e darvi appuntamento a martedì prossimo sempre alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Breve. Allora, primo ripetiamo l'invito che abbiamo fatto l'altra volta a studenti e studentesse di telefonarci, di raccontarci che cosa gli insegnano i docenti di religione, e secondo, visto che c'è in corso questa cosa delle iscrizioni online direttamente da parte delle famiglie a cui abbiamo accennato la trasmissione precedente, magari ci farebbe piacere sentire un po' l'esperienza di genitori e studenti e studentesse rispetto a questo tipo di modalità. Quindi potete farlo scrivendo a ora di buco @ondarossa.info o telefonarci direttamente in trasmissione martedì prossimo allo 06 49 17 50. Con questo vi salutiamo e vi lasciamo al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche e poi alla programmazione solita di Radio Onda Rossa. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali.